Mettiti a sedere. Parliamo un po'. Parlare a volte può fare bene quando si ha un dolore. Dopo ci si sente più sollevati. Lo so, tu sei uno di quelli che parlano poco. Però se ti porti qualche dolore nascosto dentro, credi, ti farà bene confidarti e questa è la buona occasione. Non c'è niente, da dire. Non c'è niente. Non c'è niente.